Care amiche, cari amici, buonasera. Non sono la voce squillante di Meridì, come avrete capito, sono la voce meno squillante, più profonda, a volte anche troppo profonda, di George. E questa, purtroppo, un impegno improvviso ha costretto Meridì a casa, o meglio, a letto, quindi facciamo i migliori auguri di una prontissima guarigione. Insomma, speriamo che le passino tutti i suoi malanni, grandi o piccini che siano, non ci è dato sapere, ma crediamo che sia qualcosa legato alla stagione pazzerella di Bruxelles in questo periodo. Stagione pazzerella che ci ha regalato, almeno fino ad oggi, delle bellissime giornate, devo dire, di sole, anche di vento strano. Due giorni fa c'era un bellissimo vento ionizzato che girava per l'aereo di notte e ha svegliato qualcuno, più di qualcuno che è sensibile al vento ionizzato. Ebbene, questa sera abbiamo un po' di ospiti in studio, una cosa divertente, simpatica, ma intanto saluto Danny M, regia. Buona serata a tutti, ma George era ionizzato nel senso che tu hai misurato il tasso o che veniva dal Mar Ionio? Se fosse venuto dal Mar Ionio sarei stato molto più felice. Invece era solo ionizzato. C'è una voglia d'estate in giro ancora, secondo me, non lo so, boh. A Bruxelles rimane sempre, il Belgio è la terra dell'estate perenne, cioè del desiderio di estate perenne. Salutiamo anche la nostra Fiordaliso. Buonasera. No, come hai detto? Buonasera. Non ti ho sentito. Io aspettivano. Non ti ho sentito ancora. Forse il tuo microfono non funziona, tu ti senti? Forse no. Ah, ecco, devi parlare forse sulla punta del microfono. Punta del microfono. Il regista suggerisce un cambio di postazione. Ecco, suggerisce un cambio di postazione, ma non un cambio di cuffia, perché il cambio di cuffia non ti è consentito in quanto... Mi sentite? Voi sapete... ora ti sentiamo benissimo. Oh, buonasera. Eccoci. Purtroppo i mezzi che abbiamo a disposizione non sono infiniti. Sono mezzi. Esatto, proprio mezzi nel senso di metà. Abbiamo metà delle cose che funzionano, ma d'altra parte, insomma, questa è la fine che fanno le radio libere come questa, è multiculturale, insomma, non siamo una radio che ha fini commerciali, quindi ovviamente diamo tutte le nostre energie, tutti noi stessi per questa radio, però ci mancano risorse monetarie per farla funzionare come dovrebbe funzionare una radio professionale, ma d'altra parte noi professionisti non siamo, sbaglio Fiordaliso? No, non sbagli. Meno male, oggi mi sono preso anche un non sbagli, 1-0. George contro il mondo, 1-0, è già qualcosa. Bene, adesso che abbiamo invitato, anzi che abbiamo fatto gli auguri anche alla nostra grande, grandissima conduttrice Mary D, potremmo cominciare a presentare qualcosa. Io vorrei presentare gli ospiti in studio, però mi sa che forse è meglio se prima introduciamo un po' di agenda. Che ne dici? Se preferisci, allora posso comunque invitarvi a scoprire Indomania, che fa parte della serie Europalia del Museo delle Belle Arti di Bruxelles e che stavolta ci porta in India, cioè nello splendore dei Mughal, del Maharaja, nella spiritualità indiana, nelle luci e i colori di questo paese che ha ispirato così tanti che veramente offre un ricco programma e anche una bella collezione di oggetti, cioè ci sono più o meno 250 oggetti che sono esposti fra quadri, sculture, tessili, gioielli, oggetti d'arte, ma ci sono anche film, fotografie, quindi una grande ricchezza da scoprire. E quindi vi raccomando di rassegnarvi su www.bosar.be per il programma e di visitarlo fino al 26 gennaio del 2014. Una cosa interessante. Un'altra cosa interessante è che questa è la nostra settimana clou per noi mostri. Eh sì, perché si sta avvicinando a gran passi la festa di Halloween. Spero di averlo detto correttamente, gli ospiti in studio mi stanno guardando. Ma che festa di Halloween? Tutti santi, dai! Cioè, voglio dire, uno si deve mettere, come insegnava Charles M. Schulz, in un campo di zucche e aspettare i santi? Può darsi, non lo so. Io sapevo che bisognava andare in un campo di zucche ad aspettare il grande cocomero. Questo è ciò che facevano tutti i Peanuts. Se non erro, vedo delle facce, vedo una faccia assentista, nel senso che stai asserendo. Stai asserendo. No, non parlare. No, l'ospite non può parlare, ma ci sta giocando. Però si avvicina al microfono. Sì, è l'assentista, no, asserista, assertiva, assertante. Non so come si dirà. Boh, vabbè, comunque, una faccia assertiva, è vero, sì, il grande cocomero. Quello che Linus aspettava, anzi, non era Linus. No, era proprio Linus che aspettava invece sul campo di cocomeri il grande cocomero. E vabbè, insomma, si avvicina alla festa di Halloween, che è pur sempre una festa americana, lo vogliamo dire, lo diciamo e ridiciamo, che però è diventata famosa, insomma, in qualche modo si è sparsa un po' per il mondo come Babbo Natale, e adesso tutti festeggiano Halloween e non si ricordano più che invece il 1 novembre è la festa la ricorrenza dei morti, e il giorno dopo è la festa di tutti i santi. Vabbè, che fa il 1 novembre i santi e il 2 novembre i morti? Ho detto il contrario? Chiedo venia e umilmente scusa a tutti i radioascoltatori, ho fatto un'inversione non voluta. E quindi come si prepara Bruxelles a questa festa? Beh, si prepara con un festival, il festival di Halloween al Museo delle Arti Fantastiche. E dove se no? Ovviamente al Museo di Arte Fantastica, perché insomma sappiamo che tutto ciò che è legato a Halloween è fantastico, tranne il grande cocomero che c'è e ogni anno appare in un campo non si sa dove, ma sempre solo in America. Aperto da sabato 26 ottobre, quindi fino a domenica 3 novembre, e quindi già aperto dalle 14:17, beh, insomma, ci sono delle cose interessanti, perché da più di 10 anni il Museo di Arte Fantastica anima il quartiere Ma Campagna con il suo Halloween Festival. È un festival che si indirizza ai più giovani, per i quali mettono in scena al museo la ricerca dei teschi perduti. Incredibile, è una cosa divertentissima per i bambini e quindi anche per me. La ricerca dei teschi perduti, ma anche una grande visita della collezione permanente del Museo di Arte Fantastica sarà possibile. E questi, fra l'altro, ogni anno questi del festival di Halloween propongono un enigma nuovo che, una volta risolto, permetterà a chi lo risolva di vedersi consegnato il diploma di sorcier o sorcière, cioè quindi di mago o di strega. Se i nostri, qualcuno mi corregge, mago e strega, non strego e strega, o mago e maga. Vedo delle facce perplesse, non assertive, quindi vabbè. Beh, George, se l'ospite non può parlare, l'ospite commenta con messaggi, Bluetooth, gestacci, saluti, eccetera. Quindi, no, è vero che non può parlare, però nel caso di sei tu lo stregone in questo momento. Bravo, strega stregone, mago e maga, strega stregone, maga mago. Ma nel caso di specie, ecco, appunto, l'ospite non deve necessariamente parlare, anzi, l'ospite meno parla, meglio è in questo caso. E poi capiremo perché meno parla meglio è. Potrebbe addirittura non parlare assolutamente per 2 ore di fila. E questa sarebbe una bellissima prova per l'ospite, anzi per tutti e due gli ospiti adesso. Ma capirete perché. Intanto vi do degli indizi, anch'io vi do un enigma inedito. Però se indovinate non vi posso dare il diploma di mago maga o di stregone o strega. E quindi per... una volta, questo è anche interessante, perché una volta che vi sarete ripresi dalle emozioni, chissà quali emozioni, potrete anche degustare la pozione malefica del succo, santa pace, succo di sanguisughe o zuppa, vabbè, o zuppa o potiron, questa insomma zuppa di zucca, non dispiace, una bella zuppa di zucca nella nostra caffetteria. Insomma, ci sono un sacco di cose interessanti, soprattutto per i bambini. Ve lo ricordo, il Museo di Arte Fantastica per un prezzo ridotto. E vi ricordo anche che eccezionalmente l'apertura per il 31 e il 1 novembre è dalle 11 e non solo dalle 2. Io invece ho ancora un'altra esposizione d'arte per voi. Beh, certo, te l'ho lasciata apposta. Ah, grazie. Spero che tu possa. Ma sei buono. Sì, no, ma perché c'è un motivo preciso. Adesso sarà l'addizione. Sentiremo l'addizione corretta. Ah, ecco. Ma che addizione corretta? Cioè, lui comunque si è cimentato come francese, quindi sarebbe Vasarely comunque. Vasarely è come Sarkozy, che sarebbe Sarkozy. Sarkozy che sarebbe invece Sarkozy. E Vasarely sarebbe Vasarely. Hanno tolto l'H. Può darsi. Dai, comunque l'H. Si tratta di questa figura clou, diciamo, dell'arte ottica, cioè l'artista che aveva fatto tutti quei quadri con che possono causare un po' di capogiro, ma anche di illusione ottica, che ha marcato con le sue opere il XX secolo attraverso la sua arte astratta geometrica. Il museo di Ixelles sta organizzando un omaggio a Vasarely esponendo le sue opere, che potete ammirare a Rue Van Volsem 71. E purtroppo non trovo fino a quando, ma ho visto la locandina in giro per Bruxelles, quindi sicuramente non potete sbagliare se andate in questo periodo. Bene, Vasarely. Un sacco Vasarely. Di gente che... Vasarely. Victor Vasarely. Beh, ognuno di noi cambia nome, cognome, insomma. Una prova in più che la gente e le persone hanno emigrato fin da notte dei tempi, quindi Però non entriamo nei problemi dell'immigrazione, ma invece diamo la parola ai nostri ospiti. Eccoci rientrati in studio, e quindi ecco il grande ospite graditissimo Luca Carboni, che abbiamo qui vicino. Lei è Luca Carboni? Posso parlare? Sì. No. Ho sentito un accento, già il posso parlare non è infatti un accento bolognese, ho detto posso parlare. Posso parlare, Swatch? Ma sono qui, dai! Eccolo, semplicemente un cosa. Beh, insomma, avete capito che ovviamente questa sera è una sera di scherzi, perché gli ospiti non li ho presentati, ma ve li presento veramente adesso e capirete perché ci scherziamo sopra. Abbiamo cominciato scherzando e spero finiremo proprio scompisciandoci le risate. Il motivo è che questa sera abbiamo due ospiti, non solo uno, abbiamo due ospiti, e gli ospiti sono due personaggi particolari. Due personaggi che hanno una lunga carriera alle spalle e che, non so come presentarli, forse come due persone estremamente in gamba, che si fanno notare quando sono lì dove devono essere. Stai sorridendo, signor D'Aliso? Hai capito di che sto parlando? No, vabbè. Allora, signori e signori, siamo molto felici di annunciarvi la presenza in studio di Tiziana Arcarese. Salve. Non si è sentito anche te? Salve. Ah, adesso un po'. E di... com'è che si chiama costui? Ah, Guido Castellano. Ciao. Eccolo qua. Guido Castellano e Tiziana Arcarese. Beh, signori, io la presentazione l'ho fatta, nel senso che ho spiegato abbastanza per chi voleva capire, poteva capire chi siete, non ancora però che cosa fate. Allora lascio la palla a voi, anzi lascio a Tiziana e dico: Tiziana, perché sei qui in studio? Perché mi avete gentilmente ospitato per annunciarvi uno spettacolo teatrale. Attenzione, stiamo mettendo a posto i microfoni, non è che sono... Ecco. Va bene così? Sì. Uno spettacolo teatrale in lingua italiana, si chiama La Selezione, che andrà in scena il 15 e 16 novembre al Teatro Lumen, proprio dietro Flagey, e quindi volevamo presentarvelo. Bene, quindi insomma una compagnia teatrale, quindi lei è un'attrice. Sì. No, ecco, questo è importante. Un'attrice per passione. Amatoriale, una compagnia amatoriale, mettiamo bene in chiaro di non aspettarsi grandi cose, ma siamo bravini. Ma che non aspettarsi grandi cose, certo che ci aspetta grandi cose, perché insomma, anche se teatro è cosiddetto amatoriale, ciò significa generalmente che uno non piglia soldi, ma non significa che poi il risultato non sia di alto livello, come invece spesso ho visto fare sulle scene brussellesi da parte delle compagnie CCD amatoriali. Dunque, stavi dicendo la selezione, vabbè, però prima di parlare del tema, insomma, del pezzo che sarà portato a teatro, io vorrei che il dottor Castellano, qui presente, signor Castellano, sempre presente, sì, Castellana, ecco, il signor Castellano ci parlasse invece della compagnia, ecco, Caffè Ristretto, è la prima volta che lo sento, ci racconti un po' cos'è Caffè Ristretto? Beh, in effetti è una compagnia nuova, siamo per la prima volta in scena, però se la compagnia è nuova gli attori, diciamo, sono vecchi, nel senso che siamo tutti più o meno impegnati con il teatro da qualche anno, nel mio caso da 10 anni, ma più o meno tutti per questa durata. E siamo soprattutto un gruppo di amici che si è messo insieme, che ama il teatro e che ha voluto fare qualcosa di nuovo, anche un po' di alternativo rispetto a quello che di solito si vede a livello di compagnie amatoriali italiane, a Bruxelles almeno. Ma allora come nasce il nome Caffè Ristretto? Ecco, questa è una cosa interessante. È andato dopo una serie di serate con varie liste di nomi, ne avevamo decisi molti, Caffè Ristretto non c'era, poi tutto d'un tratto è diventato Caffè Ristretto. Il Caffè Ristretto era la fine sempre delle nostre riunioni di preparazione alla commedia, si finiva sempre con un caffè ristretto, dopo grandi bevute, grandi mangiate, grandi chiacchierate, grandi risate, e quindi ci siamo ispirati alla situazione per dare il nome alla compagnia. Poteva chiamare anche la bottiglia di vino. Sono una cosa più sobria. Da come lo descrivete, io l'avrei chiamato la buffata, però insomma erano gli avvinacciati, gli avvinazzati. Abbiamo trovato, cercato qualcosa di più sobrio. Ecco, io invece volevo cercare di capire, perché la dottoressa Arcarese, qui sono tutti i dottori, mi raccomando, dottoressa Fiordaliso. La dottoressa Arcarese ha detto, visto che il Caffè Ristretto non c'era, ecco, io ho sentito una velata polemica contro questo paese. Vorrei che chiarisse il punto. Non l'ho detto. No, qui il Caffè Ristretto si chiama Nespresso, no? E quindi, insomma, noi volevamo essere un po' più precisi. Beh, un modo per avere dei fondi poteva essere quello di chiamarsi proprio Nespresso Caffè. È vero, però ci hai dato ispirazione per la prossima volta. Beh, noi anziché essere sponsorizzati, sponsorizziamo. Infatti, tutto il ricavato va a Emergency, che è la ONG conosciuta, molto conosciuta dagli italiani. E nel caso specifico andrà all'ospedale chirurgico cardiaco del Sudan, il Salam Center, che è uno degli ultimi progetti, e ci sarà anche un medico di emergency che ci spiegherà il progetto quando faremo le chiesi. Ah, quindi ci sarà anche proprio la partecipazione attiva di emergency, sì, nel giorno. Ah, molto interessante, molto interessante. E vabbè, e quindi di quante persone è composta questa compagnia? Beh, il nostro è un gruppo un po' a geometria variabile. Siamo per il momento siamo 6, ma siamo aperti a collaborare con altre persone, siamo in contatto anche con le altre compagnie amatoriali di Bruxelles, quindi siamo un gruppo che si allarga, si stringe in funzione delle situazioni. In questo momento la geometria variabile che cosa prevede? Beh, in questo momento siamo una decina in tutto, tra attori, regista, scenografi, le persone che si occupano delle luci, eccetera. Vuoi sapere i nomi? Beh, io vorrei sapere i nomi, però vedo che siccome mi avete fornito gentilmente di una locandina, vedo che almeno, non ci sono 10 nomi, ce ne sono 5. I nomi sono appunto Tiziana Arcarese, Gianluca Brunetti, Guido Castellano, Alessandro Cisotta, Agnese Litti e Rosalba Romagnoli. Beh, adesso io vi chiederò però, punto per punto, chi sono, cosa fanno, cioè la selezione. Ma che razza di pezzo di teatro è questo? Che pièce è? Raccontateci un po'. La parola a Guido. Ecco, questo è il tipico, lo dico per gli radioascoltatori, questo è il tipico ping pong che succede in scena, quando uno non sa una battuta, rimpalla quell'altro, il quale non sapendo la sua volta si inventa qualcosa e rimpalla. Quindi ecco la teoria del rimpallo. Ora lo vedete in diretta, anzi lo sentite in diretta, il rimpallo. Sì, il problema è che qui non c'è la suggeritrice o il suggeritore, che quindi ci rende le cose più difficili. No, La Selezione è una commedia moderna e di un autore contemporaneo, giovane, catalano. È una commedia che parla del mondo del lavoro, che gioca un po' sulla provocazione, no? Sul fino a che punto dei candidati ad un posto di lavoro importante possono spingersi per ottenere il posto stesso. È una commedia divertente, è una commedia che fa riflettere e si passa attraverso una serie di situazioni che si creano fra i vari candidati. Ci sono una serie di prove a cui i candidati si sottopongono, che sono allo stesso tempo in alcuni casi ridicole, quindi piene di ironia, di sfide tra i candidati, ma anche dure da affrontare a livello personale da parte dei candidati stessi, e quindi dolce amaro, diciamo. Beh, allora adesso io dopo chiederò a dottoressa Carese di spiegare meglio questa commedia di Jordi Galteran, se non vado errando. Però mi sembrava di capire nelle sue parole una velata critica a una qualche forma di concorso che è in voga in questo momento, soprattutto in questo paese. No, abbiamo un conduttore che vede critiche dappertutto. No? È una, diciamo, credo che le intenzioni del regista sono quelle dell'autore, sono quelle di criticare un po' le punte estreme a cui il processo di selezione e l'assunzione di candidati si possono spingere, insomma. Però non ci sono, da parte mia, non vedo critiche a selezioni. No, e poi diventa un pretesto per mettere in gioco, in discussione, i valori di questa società moderna. Infatti, insomma, poi chi verrà a vederlo capirà di cosa si parla, perché non si parla solo della selezione, è un pretesto per spingere veramente al massimo i pregiudizi e diciamo il blocco che abbiamo nell'accettare gli altri per quello che sono. E naturalmente in una competizione questi vengono fuori più facilmente. Certo, perché se capisco bene, questa selezione tutti sono contro tutti. Sì, si parte da una situazione di tutti contro tutti. Durante poi lo svolgimento della commedia ci sono anche situazioni di 3 contro 1, 2 contro 2. Quindi c'è sicuramente una competizione forte fra i candidati, però nell'ambito delle prove a cui i candidati si sottopongono ci sono anche delle sorte di alleanze fra diversi candidati. Cioè lo scopo delle diverse prove di far fuori uno degli altri, quindi ci sono anche alleanze da parte di chi vuole restare. È rappresentativo della realtà quotidiana, purtroppo, di molti posti di lavoro o anche di contesti simili, insomma. Secondo me, insomma, quelle alleanze, eccetera, sono tipiche, no? Sì, sicuramente una commedia che si ispira molto al mondo reale, al mondo del lavoro inteso come competizione, come scontro fra diverse persone. Questo è quel messaggio che poi credo... Un mondo senza scrupoli, quello che viene fuori in generale. Sì, quindi diciamo che l'obiettivo un po' machiavellistico, se vogliamo, cioè il fine giustifica i mezzi. Giustifica i mezzi, sì. Alla base c'è questo. Ah, una cosa interessante, quindi ci sarà da picchiarsi parecchio. Ma qualcuno chiede alla dottoressa Garisa se per caso ha letto Il Metodo, anzi El Metodo. Il Metodo, sì. Il Metodo è una commedia molto famosa, perché è stata un paio d'anni a Madrid, addirittura sulle scene, ma soprattutto è stato tratto un film. Ovviamente, essendo un film, è stato arricchito di personaggi e situazioni, però ha avuto moltissimo successo. E Jordi Galceran appartiene a una generazione di drammaturghi spagnoli vivace. Non si sa, diciamo, per quali condizioni, credo perché venga veramente sostenuto molto, perché sono molti premi, molte kermesse. di drammaturgia, cioè di scrittura vera e propria, e quindi sono molto promossi. E la cosa interessante è che questi autori spagnoli scrivono anche nelle lingue locali, quindi il catalano, il gallego, e poi vengono tradotti. Galserano è il più tradotto, per esempio, vengono tradotti in tutta Europa, in tutto il mondo. Ci sono pièce di El Método in Argentina, in Australia, insomma. Quindi, nonostante la crisi, nonostante tutto, vabbè, il metodo è una cosa che risale a una decina di anni fa, nel 2003 credo, e, però Garcerán scrive dall'88, però non è il solo, ecco, quindi è una bella realtà, cosa che credo in Italia vediamo invece meno spesso. E vabbè, purtroppo in questo momento mi sa che parlare dell'Italia è come sparare sulla croce. No, parliamo di teatro, diciamo. Parliamo di teatro, parliamo di teatro in Italia. Siamo la realtà teatrale italiana. È come sparare sulla festa della Croce Rossa. La festa di Aulin. Della Croce Rossa. Va bene. Quindi, insomma, questo metodo, questa gente che si guarda in competizione uno con l'altro, mi fa venire in mente qualcosa, ma sicuramente fa venire in mente anche a molti di voi qualcosa, perché in realtà, come si diceva, è una situazione non infrequente. Però io in questo momento, proprio su questo, io mi fermerei e proverei a pensarci, a rifletterci un po'. Quale situazione potrebbe venirmi in mente? In occasione di una dimostrazione pubblica nel mercato di Fucino, il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, ha annunciato il successo conseguito nel determinare la posizione geografica utilizzando i 4 satelliti Galileo attualmente in orbita. Tajani ha inoltre annunciato che il lancio di nuovi satelliti renderà disponibili i primi servizi entro la fine del 2014. Ne deriverà un miglioramento del segnale GPS. No, no, questo non c'entra niente, infatti è un colpo di scena, ma colpo di scena? Ci sono dei colpi di scena? E non ve lo vogliamo dire, perché no, altrimenti... No, io voglio sapere ce ne sono tanti. Non se ci sono dei colpi di scena, e ditemi esattamente come si svolge, dove siete... Ci sono dei colpi di scena? Sì. Ecco, ci sono dei colpi di scena, quindi uno non riesce... lo spettatore non è portato ad addormentarsi sulla sedia, ma è sempre sulle spine. Oh, No, non credo. Chissà se il dottor Castellano si ricorda la differenza... di cui Hitchcock parlava della differenza fra suspense e sorpresa. Non sa ricordare. Sì, come no, sì, la so questa. la suspense. Dica. La no, suspense, ma dica. È quel sentimento che uno c'ha sempre in maniera continuativa, il fiato sospeso, aspettandosi che qualcosa accada da un momento, possa accadere da un momento all'altro. La sorpresa invece è una cosa che arriva in maniera inaspettata, da un momento all'altro, in seguito ad una certa azione. Ho risposto bene? Ci faccio un esempio. Hai visto con chi recito io? Beh, si citava Hitchcock, no? La famosa scena, sì, della donna sotto la doccia, sì, che sta per essere pugnalata. Là c'è suspense, perché lo spettatore sa che sta per succedere qualcosa. Psycho, sì. Era di Hitchcock? Psycho, sì. Sì, era di Hitchcock. Ho detto bene. La sorpresa è quando la tenda si apre e il coltello affonda nelle carni della giovane donna. Ho detto bene? Diciamo che ha risposto per il 70%. In realtà Hitchcock faceva questo esempio. 70%, sì, una buona percentuale. Una buona percentuale. No, Hitchcock faceva questo riferimento parlando di una partita a poker, dicendo: immaginate un tavolo da poker con 4 persone e voi sapete che sotto il tavolo c'è una bomba. Ecco. Suspense. Che potrebbe esplodere. Quella è la suspense, perché, come giustamente ha detto il dottor Castellano, qualcosa potrebbe succedere. La sorpresa invece è vedere 4 persone che giocano a poker e improvvisamente esplodono, e nessuno sapeva perché, però esplodono. Quella è la sorpresa. Quindi ho detto quello che ho detto io, non è proprio uguale, cioè l'esempio era diverso, però il concetto era quello. Mi sembra di stare in un processo di selezione al momento. Ecco, nella nostra commedia ci sono momenti come questi. Bene, allora veramente abbiamo introdotto anche la prossima domanda, che era il personaggio. Però, visto che noi abbiamo già fatto un pezzettino di personaggio, chiediamo a Teresa Caese che personaggio è. Ma io sono uno dei candidati, come gli altri. Non c'è una distinzione vera e propria, che ciascuno arriva con delle proprie caratteristiche e che cambiano durante lo svolgersi della scena e dell'azione, e cambiano a seconda delle dinamiche che sono appunto di alleanze oppure di attacchi, e quindi si cambia moltissimo, e speriamo di riuscire a comunicarlo, questa tensione innanzitutto, perché è tutto giocato sulla tensione, sull'inganno, sul non si sa cosa, non si sa come, e quindi di trasmettere al pubblico questo tipo di stress anche che si prova davanti a certi stimoli un po' esagerati. Ma che tipo di personaggio è? È una donna in carriera. Molto carriera. Fredda e molto determinata, con dei dubbi. Sì, non posso dire molto, dovete venire a vedere. Ah, non può dire molto perché è già svelare. Se no, George, il personaggio si svela poco a poco. Se no, George, che colpo di scena c'è? Ce ne sono tanti di colpi di scena. Sì. Nella commedia. Il personaggio si crea, nel senso che pensavo. Appunto, è una donna in carriera, già abbiamo descritto il personaggio, quindi possiamo immaginarci. È una donna in carriera come potremmo immaginarla in un contesto abbastanza maschile, non al 100%, non il resto, ma insomma, perché c'è anche Rosalba, che è un'altra candidata, altra donna in carriera. Rosalba Romagnoli. Romagnoli. Forse l'ascolto. E invece il personaggio di Castellano, chi è? Cos'è? Dunque, io sono un uomo in carriera. Bene, grazie. Passiamo alla prossima domanda. No, sono dunque, io cioè la mia parte di un uomo di mezza età, sulla quarantina, con una certa esperienza professionale alle spalle, molto un po' teso, un po' stressato nel momento di presentarsi a questa selezione, uno che reagisce come adesso, cioè proprio. Ma infatti sto cercando di caratterizzare il personaggio anche così davanti a questo microfono, per dare un po' l'impressione di quello che poi renderò su scena ancora meglio, ovviamente. E sono uno che reagisce un po' distinto, un po' infantile alle volte nelle sue reazioni. Voilà. Diciamo che in generale tutti sappiamo quello che vogliamo, eh? E in realtà alla fine non si sa in effetti quello che si vuole, e ciascuno di noi cerca nella vita di mostrare il meglio, ma a volte esce fuori il peggio. Accipicchia. Beh, insomma, mi state descrivendo dei personaggi abbastanza complessi, credo che sia abbastanza difficile mettere in scena. Chi è il regista? Come è riuscito a fare? O meglio, un'altra domanda, partiamo da dietro. Le prove, come si svolgevano? Come si svolgono le prove di questa compagnia teatrale? Vado io? Dunque, prove rigorosamente e in orario, due volte alla settimana per due ore. Abbiamo iniziato aprile-maggio, sì. E una delle difficoltà, tra l'altro, delle prove è che arriviamo di solito dopo giornate di lavoro massacranti, quindi arriviamo belli stanchi, e c'è appunto una regista che ci dà indicazioni su come caratterizzare i vari personaggi, su quello che si aspetta. La caratterizzazione, tra l'altro, è un gioco di complicità fra la regista e gli attori, quindi c'è un obiettivo che il personaggio, come lo intende la regista in questo caso, e diciamo anche l'interazione con la capacità e le idee dei singoli attori su come interpretarlo. Ci si riunisce, si comincia con una chiacchierata, poi ci si concentra bene e poi si parte, quindi, e ci si diverte via. Molto e si litiga anche? No, perché sì, litigare no. Si discute, ma non amichevolmente. Appunto, la compagnia, almeno per questa prima pièce, ha un atteggiamento molto corale nelle decisioni, ci si consulta molto. La regista Carolina Catoio Guida, bisogna dirlo, ci dà molto spazio per le idee, i suggerimenti, li accoglie, li fa suoi, li rielabora, poi ritorna con altre idee, quindi è molto bello per questo, perché la parte del teatro amatoriale è anche che uno non ci va da professionista con, diciamo, una sua impostazione, ma sei abbastanza flessibile e malleabile. E poi comunque la coesione del gruppo è fondamentale per la riuscita della commedia. Noi penso che... Noi siamo molto coesi. Sì. Beh, quindi coesi anche con Gianluca Brunetti, con Alessandro Cisotta, Agnese Litti e la già citata Rosalba Romagnoli. Insomma, un gruppo che dovrebbe poter funzionare, almeno stando sulla carta e anche stando sulla... No, sono tutti bravissimi. Tranne io. Tranne tutti molto più bravi, ancora più bravi di due, per questo ci hanno mandato qui alla radio. E vabbè, voi ridete, ma fate ridere anche noi. Allora, come diceva il grande Sani Gesualdi, qualche nanetto, ridiamo moltissimo, perché fra i personaggi, mentre siamo lì tutti concitati a dire la battuta, poi non viene, non la leggiamo male, eccetera, e ne escono fuori altre. L'altra sera ne è uscita una fuori, ecco, non ripetibile. No, io voglio un nanetto ripetibile. No, non lo so, a me quello che succede è che nello stress, nella concentrazione delle prove, tendo a dire le frasi degli altri. C'è un momento di pausa e l'attore con cui sto interagendo non parla, parlo io, e lì mi odiano un pochino. Rubi la battuta, così no, dico proprio la loro parte. Non è che sì, mi sostituisco a loro, ma è un fatto di stress. Io poi sto bene nel mio personaggio, perché appunto mi tendo abbastanza anche nelle prove. Ma almeno permetti, tu penso che volessi dire questo e lo dici. No, avevi in mente di dire questo. Io lo sento che vuoi dire questo. Lo interpreto al posto della persona che non parla. Però gli altri non anche i personaggi femminili, ovviamente, e fa benissimo a qualsiasi. Sì. È un eclettico. È un eclettico. È un uomo. Sì, possiamo dire. Un uomo, sì. Un uomo. Sì, quello sì. Sei un caleidoscopio. Sei un. Sì, un camaleonte. No? Sì. Un camaleonte. Sì, un camaleonte. Che cos'è? Un po' ci sono. Chi è un camaleonte? Che cos'è? È un animalo. Un animalo. Che ha il naso che somiglia al mio. Che cambia colore. C'è un naso che cambia colore. È il naso che cambia colore, soprattutto quando bevi, immagino, si è rossa. Va bene, quindi non ci sono nanetti. Però prima di passare ad altro, anzi, prima il tempo qua vola, io volevo capire, vi divertite? Una nuova compagnia, ma voi recitavate in altre compagnie prima o recitate ancora in altre compagnie? Come funziona? Funziona che per motivi, diciamo, di programmazione, visto il panorama brussellese di compagnie italiane è abbastanza ricco, c'è la Bottega Magica, cioè ci sono le Teste Matte e ci sono altre realtà più o meno amatoriali che anche io ho frequentato. E quindi, però, purtroppo non c'è una programmazione annuale, diciamo, stabile. E allora noi che venivamo dalle Teste Matte, e siccome le Teste Matte hanno fatto una pièce di Pirandello proprio 15 giorni fa, non ci siamo trovati nel... Poi insomma, le pièce teatrali hanno un numero limitato di attori ed è bene anche fare entrare altra gente, e quindi abbiamo detto vabbè, noi non stiamo facendo quello, facciamo un'altra cosa, e per evitare, insomma, di mischiare, ci siamo dati un altro brand, ma per esempio Gianluca Brunetti parteciperà a un'altra pièce delle Teste Matte, quindi diciamo siamo aperti e interscambiabili. Beh, è una bella cosa quella di avere delle compagnie interscambiabili dove gli attori vanno, insomma, anche perché forse c'è una caratterizzazione, le compagnie teatrali tendono a caratterizzarsi o specializzarsi in qualche modo, uh-huh, a seguire un trend, e quindi forse cambiare compagnia non è neanche una brutta idea. Infatti io da buon camaleonte ho lavorato praticamente con tutte le compagnie amatoriali di Bruxelles, tranne una al momento. C'è un altro aggettivo che mi viene in mente per questa particolare situazione, anzi, un lavoro più che altro, comunque non importa. E poi anche con i bambini, perché c'è tutta una realtà di teatro per ragazzi, e Guido partecipa sempre, io invece una sola volta, che è importante perché avvicina i ragazzi al teatro, E quindi abbiamo anche un pubblico di adolescenti che viene a vederci, perché a loro volta hanno fatto la loro esperienza teatrale e sono appassionati, sono bravi. È molto importante mantenerlo, a parte per la lingua, ma in generale è per avere un'attività che arricchisca in qualche modo anche dal punto di vista umano, perché insomma il teatro è soprattutto relazione. Sì, il teatro è soprattutto relazione. Soprattutto quello amatoriale, ecco, non stiamo parlando di quello professionista. Sì, no, certo, stiamo parlando sempre di emozioni, emozioni e relazioni, e questo insegnarlo ai bambini e agli adolescenti, secondo me, è una bella missione. Però questo mi fa venire in mente, anzi mi spinge, mi porta a un'altra domanda, anzi mi sa che all'ultima domanda, l'ultima domanda è: perché uno fa l'attore? Ah, bello. Mi piace la domanda, ma la risposta è difficile. Grazie, passiamo a Tiziana. Perché una fa l'attrice? No, poi mi fa rispondere. Forse la domanda era: perché faccio il funzionario? Ah, perché fai il funzionario? Esatto, la domanda giusta era quella. Lei fa il funzionario, sappiamo che Tiziana Teresa fa il funzionario. Non lo so, perché io ho iniziato con la parrocchia, avevo credo 7 anni, 8 anni, ed è stato amore a prima vista. Non so cosa succede, so solo che io sono stanca morta tutta la giornata, vado alle prove, e quando esco dalle prove io mi ritrovo ricaricata, quindi è un punto di energia vitale importante. Poi perché mi posso permettere di essere qualsiasi cosa e qualsiasi persona sul palco, cosa che nella vita forse non sempre ci possiamo concedere, e quindi è bello passare da Mary Poppins a Macbeth. Beh, bella, adesso non posso più rispondere, perché ha risposto talmente bene la collega. Quindi, perché no. Io nella pièce faccio la saputella. Ah, ecco. Io faccio l'imbranato, quindi viene bene questa accoppiata. No, io aggiungerei una cosa che a me piace molto del teatro, è che è il gruppo, cioè la dinamica di gruppo, il fatto di dover convivere per molto tempo, per molti mesi con altre persone. Si impara a stare insieme, si impara a gestire se stessi e anche a gestire gli altri, quindi a sapere interagire, ma cercando di farlo nella maniera migliore. C'è una bellissima dinamica di gruppo nella preparazione di una commedia. Mi pare di sentire una velata critica agli attori che fanno parte di questa compagnia teatrale. Dice: stare tanto tempo con della gente diversa. Sembra di sentire una velata critica. Mi sembra che il conduttore stasera ha una specie di tendenza continua alla velata critica. No, io rispondo sinceramente senza lanciare. No, non solo, siccome non siamo contenti di vederci così tanto per le prove, ci vediamo anche fuori. No, è che il conduttore fa uso di doping. L'avete scoperto in diretta, mi dispiace, però fa uso di doping. Allora, come diciamo, ai Tempus Tyrannosaurus Rex, come diciamo sempre in radio, e quindi niente, non ci rimane che ringraziare i nostri carissimi ospiti. Prego. No, perché prima si parlava del teatro con i ragazzi. Se ci fossero degli adolescenti all'ascolto, bene, sappiate che ci sarà la commedia dei ragazzi inizio dicembre, faremo Oliver Twist. Ma approfitto così. Bello. Grande, è una bellissima notizia questa. No, è anche importante sapere che ci sono i ragazzi che hanno voglia di fare del teatro. Insomma, ci sono delle possibilità di farlo in italiano, ma ci sono parecchie compagnie. Giorgio, ricordiamo un po' tutti i riferimenti, anche il sito e i contatti. Lo stiamo facendo. Allora, il sito è www.cafferistretto, ormai lo sapete, .org. La E senza accento di Caffè Ristretto, se no. Sì, la E senza accento, e quindi è Caffè Ristretto. Giusto l'accento, bene, l'ho detto bene. Quindi il titolo della pièce teatrale è La Selezione, la regia è di Carolina Cavoglio Guida, ed è si terrà il venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre alle 20:30 al Teatro Lumen, che è praticamente a Place Flagey, dietro in un angolino di Place Flagey, quindi non ci si può andare tranquillamente. Vi ricordo infine che tutti i proventi, cioè gli ingressi, i biglietti, il ricavato dei biglietti, questa sera non trovo le parole, sono, tocca a me, andranno ad Emergency, e quindi saranno devoluti ad Emergency. E se volete, io vi raccomando, anzi di farlo, di prenotare perché insomma pare che ci sia un bel po' di gente, quindi se avete qualche dubbio, qualche idea, beh, andate, perché vale sicuramente la pena. La commedia è divertente, la compagnia teatrale è nuova, ci sarà sicuramente molta energia, l'avete sentita questa sera, energia positiva che gira, che va intorno e che qui serpeggia, ma sicuramente ha attraversato anche l'etere e vi ha raggiunto. Beh, non mi resta altro che augurarvi, come si dice, merde alla francese, come si dice? Noi si risponde merda all'italiano. Ah, bene. Allora, avete sentito, questa è veramente una tradizione del teatro, quindi attenzione, Caffè Ristretto, Teatro di Compagnia, la selezione 15 e 16 novembre al Teatro Lumen di Bruxelles. E nel frattempo io vi presento, credo che la risposta alla sua domanda sia Librangolo. No, il Librangolo più veloce della storia. Sì, scusate, il Librangolo più veloce della storia. Il Librangolo più veloce della storia si tratterà di Jo Nesbø, cioè di Jo Nesbø, per quelli che non vogliono leggerla alla norvegese, che è un autore di giallo della Norvegia, molto bravo, direi che scrive anche bene, e in più quello che ho apprezzato, diciamo, adesso leggendo vari dei suoi libri è questa capacità di costruire un personaggio in modo credibile, anche se li butta in situazioni completamente incredibili. E quello che però di cui vorrei lamentarmi, finalmente una velata critica se vuoi, è che per esempio gli italiani hanno cominciato a pubblicarlo a partire dal volume numero 3. Allora, qualcuno mi spieghi la ragione. Anche perché, diciamo, i primi volumi sono molto interessanti e tutto il resto della psicologia del personaggio, ma anche, diciamo, ci sono sempre dei riferimenti nelle storie alle storie originali, diciamo ai primi due volumi. In effetti la fama di bravo detective del personaggio principale proviene proprio dalla prima avventura, che in più si svolge in Australia, quindi per me è stata già anche per questa causa una lettura piacevole, oltre che pieno di suspense, senza sorprese, anche sorprese, suspense, un po' di tutto, esattamente. Volevo solo ricordare che 3 è il numero perfetto e 10 è il numero magico, fin dai greci. Ecco, e io ho fatto proprio una scorpacciata di Jo Nesbø, davvero, quindi ho letto i primi 3 volumi, poi ho letto uno in mezzo, poi ho letto quasi l'ultimo, diciamo, e sì, vi raccomando vivamente di fare conoscenza con Harry Hule, che è un detective un po' alcolizzato, ma con un'intuizione fortissima e una caparbietta nell'inseguimento della verità proprio senza paragoni, che sembra sempre di cacciarsi in situazioni molto strane. Quindi il primo volume si svolge in Australia, alla caccia di un serial killer. Il secondo si svolge nel Singapore, e il terzo, per esempio, si svolge si ritorna in Norvegia, e ci sono anche un sacco di riferimenti storici alla Seconda Guerra Mondiale e anche al coinvolgimento della Norvegia accanto alle forze naziste e anche delle conseguenze di questo coinvolgimento, che anche storicamente è una lettura interessante. Quindi ogni volume vi farà scoprire un altro volto di vari posti dove ci conduce, quindi ve lo raccomando, vi prometto che lo leggerete quasi tutto di un fiato, e buona lettura. Fiordaliso, grazie per questa rapidissima versione di Librangolo, però io spero che tu non debba ancora parlare di Jo Nesbø, perché è bravissimo, grandissimo, ed è vero che si è bevuto il fiato. Beh, allora dovete anche adesso dire ciao ciao ciao molto velocemente, come se fosse dei cinesi. Diciamo velocemente ciao ciao ciao, come fosse il cinese. No, io dico ciao ciao George, cambia fornitore perché il doping ti sta distruggendo. Ti distrugge. Beh, io non devo fare altro che salutare tutti quanti i nostri ospiti studio. Grazie a Guido Castellano. Grazie a voi. Grazie a Tiziana Arcarese. Grazie e venite a vederci. Grazie, grazissime a Danny Amy regia. Grazie a voi. Grazie alla mitica Fiordaliso. E salutiamo la Maridì. Salutiamo la Maridì, ma prima di chiudere. E grazie a Georges Laurent. Inutile. Prima di chiudere, però, devo fare assolutamente questa cosa. Devo dire tanti, tanti auguri. Lo facciamo anche noi, sì, grandi, lo facciamo anche noi. A qualcuno che ne ha già compiuti, la Tere di Bergamo. A qualcuno che li compie oggi, la Chiara di Roma e la Silvia di Bologna. E a qualcuno che li compirà domani, che è Messalina di Treviso, un grande nome, delle grandi persone. Noi le salutiamo, facciamo tanti auguri e noi ci sentiamo la settimana prossima e sperando che avremo, anzi siamo certi che avremo ancora Meridì. Ciao!